cazzo sei che attacchiamo e tagliamo un barbettino. Misura mia lo faccio. Non parli bello, parla adesso. Davvero? È vero, è vero. Guarda gli occhi. Dimmi. Scusate, c'ho mal di schiena. Mauro, ma che passate perché siamo a casa. È mia, adesso vengo io e ti do la sottostina. Vieni a casa che faccio l'iniezione anche a te. Ah. Quello da Barry. Se io da bussare io. È frecca, buru. E tu? Sì, si fa una massata di... D'accordo, dimmi da te. Mi volete oggi? No, perché se non fa lontano. La macchina sì. La macchina sono. Arrivi bene, segnale 8 qua, E radio 5 da parte mia, cappa, macchina di Franco sì. Allora, un figlio, 22 anni. 9 qua, ciao per te. Non fare la spiritosa adesso, già lo dico i bigliacciaffi o no? Guarda i bigliacciaffi, ora deve crescere, già lo commette a fare l'anno. Ho detto 8 radio 5. Vabbè, tu casi sì. Sbagliato, dai, fammi la schiena. Io non ci denuncio. Ma sa di zitti, se te ne voglio io. Mi stai zitto, mica mi stai dicendo, io non so, te non lo so. Sì, ma ti ho detto che dovevo, se scendevo, siccome Angelina mi aveva detto di avvisarlo, così si avvicinava anche lui. Siccome mi ha telefonato, poi già te lo può dire anche lui. Ma ti lo stavo aspettando da voi che passa il vatto. Vabbè, non c'è problema, ce ne ho una prova un'altra volta, Non è un problema per quello, dai. Cava, va bene, va bene. Luca! Dimmi. Chi è stata lì a prendere Angelino? Saradi! Adesso c'ho fame, mangio e poi prendo una pastiglia. Vabbè se passa questo mal di schiena ragazzi, me ne stanno uscendo gli occhi. Vai Gianni, come la senti a Teresa tu? Benissimo. Oh lui, io stavo scherzando, cioè, sto facendo l'iniezione per il mal di schiena. Sì, ero già da un bel po' di tempo fermo, dai. Due mesi, tre mesi, dai, non stavo lavorando. E stiamo praticamente, stavamo facendo le fughe a un pavimento, in una mansarda. Il cazzo di più cammina a ginocchiato, infatti mi fanno mancare le ginocchia. Perché il muratore aveva pensato le ginocchia e non me le imbrutta. Però me le ha fatti buca, ma me le ha fatti buca. Allora mi sono messo senza ginocchia in terra. Mi fanno mancare le ginocchia, figurati. Che miserabile, tu sei un tiranno sto. Questo maestro, lo sto descrivendo proprio come se lo vedessi. Ma io c'è! Stavo dicendo, i noghi bisogna travagliare. I noghi nella vita bisogna tribagliare. E disegnare, poi davvero da salissimo. Sì che c'è te, vai da lì. Perché se no si chiama tribaglio. Bisogna tribagliare. Tu la dici. Ha raccontato a me già che ha fatto lui 3 mesi di manovale, ma è fatto lui nulla, 3 mesi di manovale, poi automaticamente è passato mastro. Mastro? Mastro Giuseppe? Di cura, Balò. Cappagappa, comunque Franco arriva benissimo, io l'ho accompagnato sino al vero, Santiago Rocco mi arrivava, 8-9 a sbaglio. Anch'io! Dimmi, già te. Come va? Ma non volevano fare parlare con te, maleducati. Io lo lascio fare, giovane sono Gabriel Vuma. Sicuro, minore tu è. Sono Monelli, sono ubriaconi tragici. Li vorrei tu, Natalino, li vorrei. Non ci gioco più adesso, così imparano. E gli appoggio. Ok, lasciali perdere. Allora, gli appoggi tu. E gli appoggio, Natalino. Ah. No, a me non me l'ha mai appoggiata nessuno. Ma se mi è durato 10 minuti quella FM503 se non riceve più storia. Però cosa avevi combinato? La casa hai visto come funzionava benissimo. Ti ho attaccato il microfono di quello che c'ho in macchina, stavo parlando tranquillo, a un certo punto, tacchele, di colpo. Non gli ho fatto niente. al Milan? Sì. Non stava più. Dimmi. Non so che ti fai. Dimmi, dimmi, stavo per una lotta, non ce la fa a passarli, no? Non ho detto che non ce la faccio. Faccio un macchino, mando che uno. Oh, mando, ma ricugniamo, mando. Ehi, beh, dai, ciao, mi sta rotto, dai. Allora, Giorino, che è abbinato con te. Ehi, ciao, amante, ciao a tutti, dai. La prossima volta a te, dai. Non c'è problema, al limite mi quando ci organizziamo accendiamo, se mai non ce l'avete voi accendiamo con Gianni a provarlo, dai, non c'è problema, è natalino, dai, non è gana, non c'è problema, dai, scappa, vai Gianni, a te il microfono. E dove siete te, arrivate? C'è d'ora, c'è da fare per andare. Arrivate a Sassa, io vedo. C'è fuori di Gabbo, ehi, dimmi che fuori di Gabbo, no te, tu cosa ne dici? Regà? Di Angelo. È dopo, è simpatico, eh. Dopo furia, eh. Gappa, gappa, una grande persona, veramente. Va bene, dai, gappa, vai, boh, riprendete voi, la po' furia, la città Teresa. Ah, ci giochi, bello, ciao, ciao ragazzi, ciao. Ci giochi? Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, vai, po' ciao a te, a dopo allora. La bella sta lì, che fatto me lo vale cosa c'è giù, devo dire che io. Così almeno te lo guardo. Ho sempre le mani già quello forte, che sono tutta la freddata, adesso sono cubito di brilla. Ma non lo guardi pure a me, dov'è? Ehi, aspetta, faccio controllare da... Cubi, controllo a Luca se gli funziona. Dimmi. Ricambiate, ricambiate, anche a Franco dalle. Vieni qui Scooby, dai un bosso a Luca. Tu sei un cane pastore tedesco, sì. Se la controlli a Natalino, a me no, buon bell'amico vi faccio, che buon Gianni, eh? Io c'ho Scooby, cosa ti credi? Qui c'è un cane pastore tedesco. E lui con gli altri 15 centimetri. Quello mangia polpa, no ossa. E parlato, gli avagli a poco via. Tu cosa vedi, dai? Cazzo, te l'hai portata lì. Ah? A casa te l'hai portata? A casa mia, scusi, l'ho qua da ieri, ieri sera c'era. Ma è quello che c'è in campagna, no? No, no, è quello, quello di un giorno che è morto, c'è un coso, un pincher. Ah, proprio, là c'è un topperman. Ehi, è un topperman, è proprio bagliami. Beh, non posso immaginare. Oggi, dove stavamo parlando io a proposito? C'ha due Yorkshire. Uno con grandezza, praticamente la madre di questo qua che è piccolo piccolo, c'ha insomma due anni, ma rimane piccolo. Sa cosa faccia questo cane, allucinante. Il padrone fa il fuoco, no, il caminetto, e lui se ne va dentro. Allora tu dici tu cane, dici qua, ma io ne ho visto cani, ma come questo qua che se ne entra dentro, e se ne sta dentro il caminetto, come cazzo. Ma poi c'è il cane di un amico mio, di Antonello, l'Altalì. Dove rientrare in casa si cucetti le zampe. Si frega le zampe nel partenza. Sì, perché gli ha insegnato il padrone, perché bene il padrone, allora va di due dubbi. Cosa allucinato? È un cazzo piccolo, piccolo, piccolo di... Guarda, più o meno, fate un pincere che ha due mesi. Ma sta qua un bel piccolo. Non venuta. Si chiama Luna, poi c'è la madre, si chiama Perla, è allucinante. Cazzo, hanno c'è fresco, come escono fuori, poi fanno il giro, poi che rubino le mano il padrone, perché escono dalle scale, escono dalla porta proprio principale, fanno il giro, siccome la porta di giù è chiusa, senza cirugazzo, allora stanno lì, ma prendendo in giro mi siete, ma ad esempio come si fa in YouTube, e siete che il padrone la bene a Iana, io, se vado a entrare, dopo 10 minuti, un quattro di nuovo, fanno il giro, escono, va allucinante. Senti. Avanti. Buonasera a tutti, Salvatore da questa. Ah, Salvatore, buonasera. E ben ascoltato, vai Gianni. Ciao, Salvatore, ben sentito, direttamente a te. Buonasera. E allora, Salvatore. Ciao. Senti, oh, c'è anche Natalino, ho sentito. E niente, riposandoci un po' il sabato, sa per quello. Scusate, ma basta stare a il segnale già. Prova, 1.3, 1.3, prova. Tu mi sembra 8.3. Scusa, riprendi che vado, che mi accordo sul altro canale, scusa, riprendi tu già. Nove, sì, sta, 9 radio 5 a bomba, ma la radio il segnale è troppo basso. Anche qua 9. Ciao stazionario, riprendi un attimo, Luca, vado sul altro canale, sul 2, mi sposto al centro banda, mi accorgo e le passo. Vai, vai, vai, anche qua con questi 9. Vabbè, vai a Talino. Sì, gaffa, gaffa, ehi, cazzo, questo campo armadiato, non lo posso più. Allora, fai come te l'ho fatto io ieri sera. Voglio vedere un cattolo di vino, piano piano, allora se mi è passato tutto. Sì, sì, cazzo, ma se mi dico un litro di vino, metto quel cane subito d'urgenza. Ma voi non è fatto bene, c'è la pressione alta. Non sono mica bevuto di coppa, io mi avete appoggiato pure a me. No, però piano me l'ho bevuto ieri sera. A goccia, piano piano. Sono rientrato, sono rientrato, diciamo, mi sono venuto a accordare. Ok, vedo va o Luca? Se a parapetti di 9, 9 e 5. E vabbè, normale, no, sto uscendo, cioè, sto uscendo con 10, ne sto tirando fuori, no. No, va bene, cioè, mi interessa la radio e basta, intanto, mi fate sentirci Luca. Natali, come stai? Male, sono tutto arrumadiato. Paese, un giro è. Ma una cosa, Natalia, beh, con Michele più ricevuto ne avete. Sei un attimo il break registrato. Io da solo a Michele non ho più sentite. Da quella sera che stavamo facendo le prove. Ciao. Vabbè, dai. Avanti il break, con la buonasera. Buonasera, che forse Alessandro, buonasera Natalia. Ciao Alessandro, buonasera anche a te, dai. Riprendi, ciao. Ciao Alessandro, per sentito e cordialità anche a te. Come sono i segnali di come? Santiago Nuovo, Radio 5, qua. È il mio lì. Qua è 5 Alessandro. Segnale 5. E Radio 4. Alessandro, contraccambiami il controllo, dai, vediamo un po' quanto segnale ho io. Sempre con 4 watt, segnale 7, Radio 5. Vabbè, togliamo il microfono normale anche. Cava, basta attacco l'altro, dai, un attimo. Riprendi Natali. E qua sta arrivando Santiago 5, ma la radio già è buona. Alessandro, va bene, riprendi Salvatore. Capa, no, qua lo stesso, qua, buonasera Alessandro, qua ottava, sta arrivando 5, a radio, vabbè, non è una 1.5, un po' di fruscio che porti dietro, ma comunque è convincibile. Come sta arrivando Alessandro lì? Segnale 9, Radio 5. Segnale da Palino. Alessandro, qua arrivi bene. Ho detto qua a casa, arrivi bene, sei segnale 9. Adesso la radio meglio qua. Alessandro, è sparito. Lì, sono qua, da. Ciao Antonio, non ti avevo sentito, scusa, non ti ho salutato, ciao. Ciao, ti ho fatto salutare. Ben inteso, come va, tutto bene? Antonio, sempre trebolando e basta, intanto l'unico periodo è il sabato. Ok, Alessandro, è meglio qua adesso? Ciao famiglia. Ciao Salvatore. Dimmi Antonio. Ma che tu fai parte di quella cosa che ci viene proprio attorno, se già riesci a capire al volo? No, non ho capito. Quella cosa che ci viene proprio attorno, no? Ma riferita alla radio o riferita ad altre cose? Riferita al terreno. Riferita al terreno? Ah, ho capito, sì, quella lot. Ehi, capo, me l'ha detto l'ingegnere l'altro giorno. No, non ci sono io, non ci sono, sono il mio cugino, quello che hai sentito è il mio cugino, Antone. Ah, capo, perché dice che sei da poco, quello me lo stavo dicendo. Siccome è un bel grande quella cosa lì adesso, cioè sono aggiunti altri 5 o 6, c'è quell'altro che sta di fronte al cimitero, si è già iniziando qualcosa, ho visto. Sì, K, sì, Antonio. Ma anche tu ci sei, tu ce l'hai più giù il terreno? C'ho io, c'è un sacco di altra gente, c'è addirittura quello che vende, che fa il malmista, c'è. Tutta quella cosa lì è tutto un consorzio adesso. Fino ad arrivare alla Bertella. E tu figurati che c'è uno che c'ha 12-15 parenti in America. Io insomma faccio a dividere la roba lì. Già divide. L'importante che sia arrivato questo, sia arrivato, va? Ok, riprendi adesso, dai un controllo, se adesso ho aumentato, guarda, questo passaggio com'è? Più alto di prima? Nella tua via, riprendi già. Salvatore, come mi senti di radio? La radio perfetta, un po' troppo alto l'eco, cioè, come già, però la radio è perfetta, cosa stai usando? DM1000, così va bene. Adesso sì, cazzo, adesso va bene, però qua c'è il troppo reverbero, va bene, adesso è perfetta. Ok, ma adesso Alessandro si sia spostato, non mi ha risposto adesso. Mi sono spostato sì, dimmi tutto. No, volevo sapere se era più alto di 9,10 adesso il segnale, Alessandro, solo adesso, non solo il segnale mi interessa, se è aumentato. Ma è che c'è 9,10, 9,20, dai. E K, quello che mi interessava, va bene, ok, mi prende Luca. E magno sto usando? Magno, no, non è un magno, no, c'ho il brutto sto usando, ho spento un altro, sto usando il brutto. Ma le attende invece, sto facendo Alessandro. Ma non la so, c'ho. Ma il magno non lo sto usando? Fermo, non lo sto usando, ma lo stiamo recuperando. Wow, ma ricordo non lo sta. Ho messo a posto questo qui, gli ho trovato il microfono che si addice. Qui c'ho già, ne ho già altri tre, ne ho preso anche l'Intec 550 omologato, quello che c'ha l'eco, c'è tutto qua. Tanti. Anche io sogno questa voce, mi ricorda di un vecchio titano. Buonasera, dottor Luca, questa parte. Un po' bassino sta arrivando, come mai di età? Ah, e allora vedo che lo accendi di tanto. Ma la casa come mai sta attaccata? C'hai quell'apparecchio bello? Ma ciao Carlo, mi hai sentito dopo tanto. Grazie, ma avevo detto che eri rientrato, quindi aspettavo di sentirti. Sì, però è un po' bassino qua, un po' bassino. Io non sono più a Sassari, mi sono trasferito anch'io Carlo. Adesso sono qua giù a Ottava. Però deve essere dentro la ombra per me. Già, io non lo sento più, l'ho perso, sento il QRM, non so se sia cosa abbia detto. Tu l'hai sentito? Ehi, ha detto che da Balai, magari se fosse stato a Balai l'avessi sentito più forte, ma lì, dov'è, al porto, è una zona un po' dopo anche per me. Carlos, ci ha fatto piacere che sei entrato, dai, potenziati un po', dai, fatti sentire bene. Dice che di attaccare, che già ce l'ha. Ciao Carlo. Ciao Carlo, buona serata, dai. Ci ha fatto piacere sentirti. Fate sentire più forte, così almeno facciamo una questione. Tu, Giampaolo, tutti quelli che trovano più. Ci fa piacere, dai. Avanti. Ciao Carlo, mi ha fatto piacere sentirti. Comunque, se capita nelle parti mie dove c'ho il tabacco, vieni a trovare il passa che ci facciamo una chiacchierata. Io intanto ci sono sempre lì, i soliti orari, quelli non sono mai cambiati, Carlo. Se capiti di quelle parti mi fa piacere scambiarci due parole, ok? Già chiuso, salvato. Cap, Ma vabbè, pazienza, lo vedrò la prossima volta. Riprendi Natalì. Prossimo anno. Ciao Carlo. E adesso è un domenico. Carlo Conti. Adesso si è arrivato un buon segnale, dai. Ciao Carlo, ok, ci hai capito, va bene, perfetto. Alle prossimine. Riprendi, chi c'è? Luca. Sì, sto facendo un panino, se lo faccio qua. Vai, frequenta uno, che qui. Come è fatto a riconoscermi? Buonasera a tutti. Bravo, lo schiacci fatto. C'è tipo un bip riconoscibile, non è un bip, ma io lo chiamo bip. Ciao, vabbè, vai Natalì, a te il microfono. Ciao Franco, tu sì che mi calmi il bip. È chiuso, niente. Ciao Natalì, riprendo fra un po' che devo scendere a controllarmi della roba. Tu prendi solo acqua. Ciao Franco, guarda lì, con l'Evoglia, proviamo di nuovo, ormai ho fatto vedere la yoga, mi piace, stavo provando l'altra volta se c'era qualcuno, un po' tardi, ma ho visto che era tutto in silenzio. E cappa, e tanto meglio, devo buscare anche l'interfaccia, che me la fa quell'amico lì, che ti ho detto, e la proviamo, non c'è problema, e che mettendo male la sua bubuca, dove sono questo qui. Però su eBay ho visto un'interfaccia, un programmino che stavo vendendo, che effetti interfaccia, è come un'interfaccia, è una cifra, guarda, abbastanza ragionevole. Se passi in settimana, guardiamo, casomai se è una cosa interessante ce la possiamo ordinare. Intanto è un prodotto compra subito, non è in asta. Ma bisogna vedere se funziona con la scheda audio. Capito, se no tocca buone in moda, in chiccio, guidato, invece no. Con quell'interfaccia qualcosa che funziona con la scheda audio, siamo a posto e ne dobbiamo comparare in sé. Ah, sì, allora, va bene. Allora, aspettiamo che ce lo costruisca. E poi attacchiamo quello, vabbè. Comunque se nel frattempo poi con gli agui me lo fai sapere e lo facciamo. Ok, riprendi già. Sì, riprendo e vi saluto perché me ne sono sto conto a mandicare. A preparare qualcosa anche a papà, e faccio mangiare anche a lui. Che loro sono portati i bambini a ballare e quindi non so che la ritorno. Ah, giusto, oggi c'è. Cos'è? La c'è la c'è. Io mi sono parlato con questa. E dopo mi diceva, c'è fiammi, Sì, capo, c'era più. Tu,

ti distribuisci da un centro. Perché no, si è innamorato di questa ragazza praticamente, E niente, si è fatto una famiglia, dei figli, ma da vivere per un periodo, non so, 2 anni a Milano, come gente benestante, noi c'hanno, non so, 2 anni, cioè a Milano, no, è a Milano, mi sembra che, se non mi ricordo più, non è Milano, Milano, tutto, ma... E niente, erano fatti lì per un paio d'anni e poi sono rientrati qua in Sardegna. E adesso lui c'ha un'edicola lì in via, è la prima traversa di via Lombretto, lui via è quella delle Trento, no? E comunque la prima traversa girando alla sinistra. Vabbè, parati. No, ce l'auguro che fai molla tutto l'aver preso. Sì, ho capito chi è. No, non ho capito, capito. Io stavo appena arrivando quando è successo quel fatto, va bene. Un attimino, vediamo un po' che avanti con la buonasera. Niente, no, al momento. Ok, già c'è l'esatto. Prego! Non c'è nessuno, andata lì. Prego! Avanti! Avanti il break. Vabbè, non c'è più nessuno. Ecco! Avanti il break. Luca! Luca, ti stavo chiamando lì. Ecco! Avanti! Salutoni Daniele, no, sto chiamando a Luca perché è l'unico che riesce a sentire più forte, capito? Ma Luca deve esserci, si è allontanato un attimino. Buonasera Daniele, sono andato da questa. Lui si deve essere allontanato e riprende subito. Cappa cappa, salutoni a tutti, chi c'è? Ah, poco fa c'è un sacco di gente, Gianni, Natalino, sono andato da Palmadura, credo, Luca, c'è un po' di gente, adesso o si sono trovati per mangiare, ma non lo so. Comunque Luca un attimino sicuramente deve stare prendendo subito, Dove sei Daniele? Qua a Santa Maria, con mio fuori serie. Ok. Vabbè, qua io sono ottavo, ecco perché ti sento più basso. Ok, Luca, sei entrato? Dove stai arrivando dalle tue parti? Ah, sei, non sei, diciamo, sei Santiago 3, una radio un po' bassa, molto QRM ti porti dietro, ma se sei in Barra Mobile magari è anche normale, magari sei in mezzo al traffico e per quel motivo, vabbè, comunque guarda averti sentito. Ok, ho mancato la corrente perché di colpo sono mancati tutti, vediamo un po' se qualcuno è rientrato, attenzione Gianni o Natalino Luca. Negativo Daniele, è successo qualche cosa, è mancata la corrente o... perché sono spariti di contro tutti. Tutti a fare sono andati, altro che... Vabbè, aspettiamo un minuto e ci andiamo anche noi a pappare, mi sa perché adesso, sì, andiamo anche noi, ne approfittiamo e accendiamo più tardi. Va bene, ciao Daniele, anche io me ne vado a mangiare. Ok, alle prossimine. Saluto, anche io sono arrivato qua a casa, vado a far carica, se coincide sentiamo dopo, dai. Hola, 1, 2, 3, prova. Luca! Eia! Gappa gappa, che fine hai fatto poco fa? Ti stavo chiamando perché era l'unico che sentivo. Daniele, sono spostato, che c'ho questo microfono che stanno problemi, aspetta un attimo. Aspetta che mi stavo chiamando un altro, chi è avanti? Qua se mi sposto mi slatterano, c'è già che mi slattera. Sono qua vicino a casa, dai, alle cliniche universitarie sto rientrando, adesso carico, non è venuto qua da mangiare. Ecco per Daniele. Avanti, dimmi, regolo. super salutone alla ruota e super salutone anche a te Dani, dove ti trovi in questo momento? Qua quasi sotto casa, dai, Viale San Pietro. Puca. Un attimo, Salvato. Vabbè, dai, avanti, Salvato, dai. No, è che niente, faccio i politici che me ne vado a pranzare, a cenare, ecco, ormai ci sentiamo più tardi. No, c'era Daniele che ti stava chiamando, l'abbiamo già detto, sicuramente si deve essere spostato. Ok, ciao, ci sentiamo più tardi a tutti quanti e che vado a cenare. Ciao, ciao, a dopo, buona carica, dai. A dopo magari se coincide. Ciao, che a regolo, buonasera. Contraccambio dei salutoni, ciao. Ormai lui lo stiamo usando al posto del telefono, il baracchino, guarda. Però per me, mi ha risparmiare Giorgio Luigi, Daniele. Lui si è considerato che quest'euro non vale a niente, anzi, vale ma non vale. Perciò come senza risparmiare. Come risparmiamo pagando le tasse? Dai, già, già, andiamo a usarlo anche così, dai, oltre alle chiacchiere, a renderlo anche utile per queste cose. Interessante non dire mai le cose più, capito, le cose magari di casa. Io, ma proprio sì, sto arrivando, boh, basta. Cioè, ci sono tanti ascoltoni di Daniele, ecco perché. Capa, così già va bene, dai, giusto? Qualche cazzata, magari vai, comprami questo, mi sono dimenticato, posso fare una chiamata, lo usi un attimino e via, capito? Infatti per quello va bene, dai. Tanto poi per quello che si paga, ne vale la pena, ne vale la pena, va bene. Già andame, già andame. Daniele, ci stanno a mangiare, ci sentiamo dopo, se ne è voglia. Io mi passo sul 15 un attimo che sta rientrando Franco da Alghero, dai. Kappa, dai, Lu, ci sentiamo dopo cena, dai, fra boh, una mezz'oretta, un'oretta così. Se non mi addormento, sto facendo, ma credo di no, dai. Kappa, va bene. Ci sentiamo più tardi, Lu, dai, salutoni, a dopo. Ciao, Daniele, ciao, Regolo, buona carica, vado a qua, ciao. Altrettanto a te, salutoni, ciao, ciao.